allo suono de gran cascia, viva lo popolo basso, allo suono de tamburielli, so e risurte li poverielli, allo suono de campane, viva viva li popolane, allo suono de violine, morte ali giacobine, sona sona, sona carmagnola, sona li consigli, viva ORR con la famiglia. Passai e lo mese chiuvuso, lo ventuso e la diruso, a lo mese ci assemete, hanno avuto l'aglio a rete, viva tata Maccarone, ci ha rispetta la religione, giacobini iate amare, ci a vua brucia lo panare, sona sona, sona carmagnola, sona li consigli, viva ORR con la famiglia. Li francese so arrivate, NCE hanno buono carusate, e voilà, cavece N culo alla libertà, allo ponte la Maddalena, onna Luisa è asciuta prena, e tre miedece che vanno, nulla ponno fa sgrava, punto, sona sona, sona carmagnola, sona li consigli. Viva ORR con la famiglia! Ali tridece de giugno, Sant'Antonio glorioso, e signore stibirbante, e facettero o mazzo tanto, so venute li francese, aute tasse NC e anomise, liberté, egalité, tua rube a me, ia robo a tette, sona sona, sona carmagnola, sona li consigli, viva ORR con la famiglia. A Sant'Eremo tanto forte, l'hanno fatto come a ricotta, a stupornuto sbevognato, l'hanno miso a mitria, NKP, ma i stacchi ti ha traluto, chi sto stomaco chi ha avuto, e signore e cavaliere, te volevano prigioniere, sona sona, sona carmagnola, sona li consigli, viva ORR con la famiglia. All'umuolo senza guerra, se tirai l'albero in terra, a Ferraieno e Giacobine, e facettero N.A. mappina, e fernuta l'uguaglianza, è fernuta la libertà, per voi e so dolore e panza, signo iateve a cucca, punto, sona sona, sona carmagnola, sona li consiglie, viva ORR con la famiglia. Thank you.